Siamo rientrati dunque in diretta, abbiamo ripreso il brano che era stato troncato chiaramente per mancanza di tempo dal GR di Radio Popolare Network. Siete sempre in ascolto di Radio Città del Capo e in particolar modo di 451 Frammenti Sonori, che ovviamente va in onda sempre la domenica dalle 23:35 circa sulle frequenze di Radio Città del Capo. 451 Frammenti Sonori dunque riparte. Questa è la seconda parte della trasmissione intitolata In Conventional Jazz from Japan, o Japan sarebbe più giusto con l'accento differenziato. Abbiamo ovviamente sviluppato fino a questo momento, nella prima parte in particolar modo, un percorso musicale che cerca di affrontare, di mettere in scaletta un viaggio musicale all'interno del jazz non convenzionale dal Giappone. Partiamo dal jazz, ma arriviamo veramente a molti sentieri, a molte strade differenti. Abbiamo attraversato, attraverso gli autori già della prima parte, sonorità che si avvicinano addirittura in alcuni casi al noise, all'ambient, alla contemporanea, all'elettronica e a tutte le diramazioni più sperimentali del jazz che i giapponesi hanno sempre particolarmente amato. Esiste una scuola importante giapponese di jazz classico, ma esiste anche una importante fetta di musicisti, di progetti che si richiamano, che nascono o che arrivano successivamente partendo da altri linguaggi musicali al jazz, che è altrettanto importante. Soprattutto è stata molto fondante rispetto a tutte le progettualità sperimentali d'avanguardia che hanno attraversato l'intero globo. I giapponesi spesso sono andati in Europa, negli Stati Uniti, a studiare, a relazionarsi con altri mondi, con altre culture, però riuscendo sempre a dialettizzare la loro sperimentazione in questo connubio tra tradizioni, quasi suoni e sonorità primordiali, con la tecnologia, con un aspetto quasi legato allo spazio, alle musiche quasi di altri mondi, a musiche anche futuriste, e hanno giocato molto rispetto a queste dimensioni, creando un suono veramente unico. Spesso semplicemente da alcune composizioni si riesce a capire che queste composizioni, questi progetti sono stati elaborati ed eseguiti da musicisti giapponesi per il piglio, per i suoni, per l'ecletticità e i deliri nella costruzione e negli sviluppi musicali. E l'abbiamo visto, più che visto, sentito, essendo in radio, già nella prima parte di questa trasmissione, che ha avuto nel suo percorso sonoro questi autori. In particolare abbiamo iniziato con Yamazuka Ai, per passare poi a Masahiko Togashi, per passare poi a Kato Hideki, a Natsuki Tamura e appunto a Satoko Fuji Orchestra, che abbiamo ascoltato soltanto in un frammento nella prima parte e l'abbiamo ripreso poc'anzi nel brano che abbiamo appena ascoltato. Si tratta dell'ultimo lavoro, Zacco Pain, uscito alla fine del 2010, e di Satoko Fuji, che non abbiamo avuto molto tempo per raccontare il suo percorso sonoro, le sue caratteristiche. Adesso abbiamo ovviamente un po' più di spazio per poter approfondire meglio questa compositrice, che è una pianista che ha sviluppato il proprio percorso musicale sviluppando e portando avanti gli studi classici di musica classica fino all'età di 20 anni, per poi intraprendere la strada e i linguaggi più connessi al jazz. In particolare lei ha sviluppato e ha cercato di studiare le tecniche, gli sviluppi e le attitudini soprattutto del free jazz. Il suo maestro, il suo punto di riferimento è stato Cecil Taylor, e da qui è partito un lavoro assolutamente certosino, viaggiando negli Stati Uniti, in Europa, e avendo come maestri musicali nomi veramente altisonanti come George Russell, Cecil McBee, Paul Bley. E con lo stesso Paul Bley ha lavorato a metà degli anni 90 realizzando un album, Something About Water, un ottimo lavoro. E poi successivamente ha lavorato con il marito che abbiamo ascoltato nella prima parte, Natsuki Tamura, con un paio di album sempre degli anni 90, e poi ha sviluppato tra appunto la metà degli anni 90 fino agli anni 0, vari progetti paralleli da Satoko Fujifur, Junk Box e appunto Satoki Fuji Quartet, e questo progetto appunto Satoko Fuji Orchestra. Rimanendo sempre nelle dimensioni connesse al jazz d'avanguardia, in particolar modo al free jazz, ma avvicinandosi sempre di più anche al modern creative, all'experimental big band, e l'abbiamo ascoltato in parte nel brano che abbiamo poc'anzi messo in onda. Un aspetto orchestrale però sempre molto originale, mai scontato, mai banale e mai convenzionale, anche nella costruzione di un'orchestra tipica, connessa alla big band o comunque al lavoro più squisitamente jazzistico. Anche in questi contesti, in queste strutture, è sempre riuscita a sviluppare degli elementi eclettici, degli elementi obliqui nello sviluppo del linguaggio jazzistico. E da Satoko Fuji Orchestra andiamo a presentare un nome veramente importante nella scena del jazz non convenzionale, ma forse proprio delle musiche non convenzionali dal Giappone. È un nome fondamentale, un artista che è tuttora importantissimo nella scena della musica sperimentale, ed è Otomo Yoshide. L'abbiamo già incontrato all'interno di 451 frammenti sonori in alcune trasmissioni, ed è questo personaggio veramente trasversale rispetto ai linguaggi musicali e alle sonorità. Ha fatto veramente di tutto, è impossibile catalogarlo. Chiaramente ha attraversato l'aspetto più squisitamente elettronico, essendo nato come un chitarrista improvvisativo che però ha lavorato molto con la tecnologia e con l'elettronica, per poi spostarsi in una fase successiva. Ecco, in questo caso troviamo un musicista che non parte dal jazz ma arriva al jazz in un periodo in cui le composizioni si avvicinavano sempre di più al free jazz, al jazz improvvisativo e anche alla dialettica, la fusione tra linguaggio jazzistico ed elettronica in maniera veramente fenomenale. Ma ha attraversato il noise, il rock, il sound art, l'opera addirittura, e ha lavorato veramente su terreni estremamente variegati, ed è un artista assolutamente fondamentale. Otomo Yoshide ha costruito tantissimi progetti importanti, e ricordiamo alcuni che sono stati veramente fondanti, come Cathode, Ground Zero, Filament, per poi realizzare un progetto più squisitamente legato al linguaggio jazz, seppur sempre a sua maniera, come stiamo dicendo, ed è il progetto Otomo Yoshide New Jazz Quintet, che ha fatto uscire in particolar modo un disco splendido nel 2001, Flutter, dove tutte queste attitudini, tutte queste diramazioni musicali e compositive emergono ovviamente all'interno della cornice jazz, ma appunto è abbastanza limitativo definirla solamente jazz. È un progetto con questo linguaggio di partenza, ma che poi si fa attraversare da tutto quello che ha portato avanti e che continua a cercare lo stesso Otomo Yoshide. Ci andiamo ad ascoltare un brano particolarmente coinvolgente, un tunnel sonoro. Yoshide ha avuto sempre attenzione, oltre che alle composizioni, ai giochi, ai deliri, alle decostruzioni, anche rispetto al suono. È un brano comunque che ha una matrice jazzistica, ma che risente ovviamente della genialità di questo autore straordinario, e speriamo anche, ma sicuramente lo faremo nelle prossime puntate di 451, di inserirlo anche in qualche abito differente, perché ne ha veramente moltissimi, quasi a dimostrare una personalità assolutamente articolata, differenziata, ricca di mille sfaccettature. Andiamoci ad ascoltare dunque Flutter, album del 2001, Otomo Yoshide, New Jazz Quintet, e ovviamente buon ascolto da 451 frammenti sonori. Thank you. Thank you.

E siamo ritornati in diretta, abbiamo ascoltato questo viaggio assolutamente cosmico e assurdo e allucinatorio di Otomo Yoshide con il suo New Jazz Quintet, un lavoro assolutamente fondamentale per coloro che amano il jazz al di fuori appunto di alcuni canoni. Sentiamo al sottofondo questo lavoro appunto di suono, di noise, veramente geniale alla fine di questo percorso sonoro, partendo appunto da questa linea jazz classica, meravigliosa, che è stata rimodulata. Si sente ancora all'inizio del brano il disco, appunto il vinile graffiato, modo old style, e appunto Otomo Yoshide riesce a rappresentare al meglio questo tipo di attitudine giapponese assolutamente aperta, assolutamente incatalogabile, che emerge appunto nel percorso sonoro di questa serata. E adesso ci spostiamo subito a trovare il prossimo personaggio, in realtà un progetto, che è Altered States, un lavoro molto bello del 2006 che si muove in un jazz però assolutamente appunto non convenzionale, come il tema di questa serata, nel senso che il jazz emerge ma poi ci sono dimensioni post rock, elettroniche, tribali, legate anche alle tradizioni giapponesi, che questo progetto riesce a rappresentare perfettamente da questo album Bluffs 2 del 2006, che è ancora un'altra diramazione delle dimensioni oblique, deliranti, assolutamente non catalogabili del jazz non convenzionale from Japan, così l'abbiamo voluto definire in inglese, unconventional jazz from Japan. E ovviamente buon ascolto intanto con Altered States. Thank you. Thank you. tara, mo tara. Ha, ne tara, mo tara. Thank you. e siamo rientrati in diretta dopo aver fatto di nuovo un collegamento con Altered States dall'album Bluffs 2 del 2006. Abbiamo collegato ormai, diciamo, un punto di riferimento di questa trasmissione, abbiamo inserito un altro brano del disco che abbiamo già messo in onda nella prima parte della trasmissione, di Nazuki Tamura, Kokoke del 2003, anche appunto per dare quasi una sorta di passaggio a metà circa della trasmissione, della seconda parte chiaramente, come abbiamo fatto nella prima parte, quasi a simboleggiare un po' l'attitudine, l'idea di fondo della trasmissione di stasera, un conventional jazz from Japan. E appunto si è voluto anche noi giocare inserendo altri due frammenti di Nazuki Tamura, appunto per la sua genialità e obliquità nella costruzione di questi brani intervallati tra tromba e parlato giapponese, con delle frasi, le parole senza senso. Non che io abbia capito il giapponese o che conosca il giapponese, ma da quello che ho letto, appunto, brani che tendevano a essere ritmici e sonoramente interessanti rispetto appunto a una dialettica fra strumento musicale, tromba, e appunto voce e parole, dunque anche poesia sonora, seppur appunto scollegata da qualsiasi senso logico. E dopo aver fatto ascoltare Altered States, ci avviamo verso un'altra formazione che comunque è accomunata con Altered States per la provenienza, cioè Osaka. Altered States abbiamo detto ben poco, diciamo, in presentazione, giusto ricordare i membri di questo gruppo interessantissimo, nato all'inizio degli anni 90 ad Osaka in Giappone. E si tratta appunto di un trio a cui poi si sono collegate varie collaborazioni di altri musicisti giapponesi, ma diciamo il gruppo fondante era costituito da Nasuno Mitsuru, Yosagaki Yatsurio e Ushishashi Katsuisha. Un disastro, in questo caso veramente un disastro. Fino adesso con i nomi giapponesi ero riuscito abbastanza a cavarmela, perché non erano particolarmente difficili, in questo caso erano un po' più complicati, chissà che strafalcioni. Però insomma avete tutte le possibilità ormai del mondo a livello tecnologico via internet per arrivare a conoscere meglio i nomi e anche altre informazioni. Per adesso noi, giustamente essendo una trasmissione musicale, diamo anche un po' di storia di questa formazione, che come avrete sentito nei due brani che abbiamo ascoltato, un piccolo frammento iniziale di apertura dell'album e un altro brano, si muove in un jazz che è molto contaminato dal jazz psicadelico, dal jazz elettrico degli anni 60-70. Loro stessi in varie interviste hanno dichiarato che i loro riferimenti, partendo da Miles Davis, sono tutte le formazioni di jazz elettrico, di jazz psicadelico di quel periodo storico, ma sono sempre stati anche estremamente affascinati, lo si sente in alcuni diciamo momenti del disco che abbiamo ascoltato, ma anche di altri dischi, anche dal jazz improvvisativo, ma anche da un certo rock da cui loro, diciamo, hanno attinto per la costruzione del progetto iniziale, che poi si è spostato sempre di più verso altri lidi. Si sentono comunque anche influenze legate all'ambient, al noise e anche ovviamente all'elettronica, che devo dire sì, sono riusciti ad affinare nel corso degli anni per arrivare a una buona appunto contaminazione fra elettronica, jazz, rock, ambient e noise nei loro dischi. Chiaramente l'elemento psicadelico emerge in maniera forte in questo album, come anche negli altri progetti, soprattutto degli ultimi anni, di un gruppo, insomma, che è riuscito tra gli anni 90 e gli anni 0 a ritagliarsi una fetta importante di notorietà musicale nell'ambito ovviamente degli appassionati. Oltretutto questo progetto ha collaborato strettamente anche con un interscambio di musicisti, anche con i progetti, con i multiformi progetti di Otomo Yoshide, che appunto ha avuto momenti di collaborazione molto strette, anche attualmente continua a esserci un rapporto estremamente intenso con la progettualità e il personaggio Tom Yoshida da parte degli Altered States. Comunque anche gli Altered States riescono a dare un'altra sfaccettatura delle dimensioni musicali del jazz, come l'abbiamo voluto definire noi, non convenzionale del Giappone, ma comunque di tutta la scena sperimentale che ha comunque attraversato il jazz, anche se non è partita come esperienza, come progetto, come formazione dal linguaggio jazzistico, ma comunque l'ha attraversato ed è riuscita a manipolarlo, a trasformarlo, a renderlo fondamentalmente una massa estremamente ricca di influenze musicali, di stili, mantenendo oltretutto sempre, questo lo voglio ribadire come ho già detto nella prima parte, un collegamento molto forte fra tradizioni e tecnologia. Anche nel linguaggio jazzistico questo elemento emerge, l'elemento tradizionale sia a livello di strumentazione, di strumenti proprio tipici giapponesi, ma anche come costruzione compositiva, attitudine, è presente anche in moltissimi di questi progetti che in parte stasera stiamo trattando, ma chiaramente sempre in rapporto con un elemento tecnologico e con una forma malata, distorta, provocatoria, ma quasi molto molto altera rispetto anche alle nostre visioni occidentali della musica, delle rappresentazioni, della mediaticità. Anche i giapponesi hanno l'interesse forte, molto molto molto pregnante della conoscenza tecnica, della conoscenza tecnologica e dello studio, come in molti casi molti compositori, molti progetti europei e occidentali hanno, però mantengono una visione, una costruzione, forse più decostruzione che costruzione sonora, che è assolutamente unica e che emerge chiaramente anche nelle costruzioni dei progetti più sperimentali ed eclettici legati al jazz. E da Altered States, appunto, un altro progetto nato ad Osaka è un progetto invece che si è mosso, ha mosso i primi passi nel 1997 nella scena del rock sperimentale, per poi arrivare anche in questo caso in maniera progressiva a dei linguaggi jazzistici, percussivi tribalisti e connessi anche con appunto la strumentazione più tradizionale giapponese. Si tratta degli Ohio, nate appunto nel 1997, la formazione composta da Yaji Michio, Sakito M, Mari Era e Ako. Questi sono i quattro elementi di questa formazione che hanno spaziato molto negli album che hanno realizzato fino ad ora, come atmosfere, come sonorità, mantenendo però appunto una commistione, soprattutto nell'album che andiamo adesso ad ascoltare, uscito nel 2003, Pic Ara Bu, così si chiama l'album degli Ohio, verso appunto anche a delle dimensioni più squisitamente jazzistiche. Il brano che ascolteremo è un brano percussivo, tribalissimo, molto molto sostenuto, che poi piano piano si sviluppa per poi far emergere una percussività, una ritmicità molto jazzistica, inserita in un quadro molto particolare, molto sperimentale, ma che sicuramente mantiene un collegamento forte a livello di linguaggio con l'elemento elettronico che è sempre stato molto presente fin dall'inizio nel progetto di Ohio, anche quando la formazione manteneva un profilo più connesso alla dinamica del rock sperimentale. A questo punto non rimane che ascoltarli, ricordando che anche gli Ohio hanno avuto collaborazioni importanti e insomma fondamentali, in particolar modo con John Zorn, un paio di album, e ovviamente l'etichetta non poteva che essere la Zadig, che spesso stasera abbiamo incontrato, non sempre ma in diversi progetti la Zadig è lì ed è appunto a promuovere, a sostenere queste progettualità per l'attenzione che ha sempre avuto rispetto al mondo musicale, artistico ed espressivo asiatico, in particolare quello giapponese. A questo punto godiamoci Ohio dall'album Pic Ara Bu 2003. Buon ascolto. Thank you. Splendido questo lavoro, ricordiamo ancora, progetto assolutamente da seguire, anche perché è nato tutto sommato circa 13-14 anni fa, tutto sommato, c'è ancora tempo per creare, avendo ascoltato progetti che sono nati molto molto prima, però appunto aspettiamo ancora per vedere se Ohio riuscirà come progetto a elaborare ancora altre soluzioni e altre appunto novità musicali che possono appunto anche sorprenderci e incuriosirci ancora. L'album, ricordiamo ancora, è Pic Arabu del 2003. E la formazione sicuramente ha la particolarità di essere riuscita, soprattutto in questo brano, a coniugare elementi di tradizione, elementi tecnologici, appunto futuristi e futuribili, e elementi jazzistici, soprattutto nella parte percussiva, che riesce perfettamente a intrecciare l'elemento tribale, tradizionale, quasi primordiale, con l'elemento invece più tecnologico che emerge nella costruzione del brano e dell'album intero. Dagli Ohio andiamo a presentare invece l'ultimo progetto di questo percorso musicale legato al jazz non convenzionale dalla terra del Sol Levante, e ricordando ovviamente, dicendo una cosa che non è scontata ma che è doveroso ovviamente affermarla, che abbiamo ovviamente ascoltato molti progetti che però chiaramente non sono esaustivi rispetto a questo universo che è estremamente ampio. I materiali, i progetti non sono così semplici da intercettare, da conoscere e da trovare, ma indiscutibilmente pensiamo che in futuro costruiremo anche una seconda parte legata a questo universo giapponese, che è ancora ricco di altre progettualità, di altri incroci tra autori, come avrete notato, almeno per coloro che hanno avuto la forza, il tempo e la mancanza di sonno per andare avanti nel corso di tutta la puntata. Tra i vari progetti, fra i vari autori, c'è spesso un collegamento che si esprime, si esplica in collaborazioni e addirittura in progetti insieme paralleli, per cui diramazioni sono ancora notevoli, e probabilmente, dato l'interesse e la particolarità di questo di questi linguaggi musicali espressi dalla terra giapponese, dovremmo comunque, è facile che costruiremo un'altra puntata, una seconda parte con altre progettualità da collegare a questo percorso che abbiamo stasera soltanto iniziato, proprio come forma di frammenti, quasi a dare un tributo anche al nome della nostra trasmissione. E l'ultimo progetto è costituito da quattro elementi. Sono i Minamo, che in passato abbiamo inserito in alcune trasmissioni 451, formazione molto interessante, nata nel 2002, dunque pienamente negli anni zero, che si è sempre mossa all'interno di un aspetto indiscutibilmente minimalista, come lo stesso nome richiama, ma anche estremamente interessante per la grande capacità di unire associare elementi e dimensioni connesse all'elettroacustica con l'elettronica, soprattutto in termini di melodie, di armonie che i Minamo sono riusciti a comporre attraverso i loro dischi fino ad oggi. E scusatemi l'attesa, ma c'era un piccolo problema tecnico. E appunto la formazione è composta da Keiichi Sugimoto, Namiko Sasamoto, Tetsuro Yasunaga, Yuichiro Iwajita. Formazione che appunto ha dipanato tra il 2002 e ad oggi ben 8 album, dunque piuttosto prolifica. Formazione che ha avuto anche collaborazioni importanti con varie progettualità, non soltanto connesse alla scena giapponese, ma anche con molti progetti americani. Ricordiamo ad esempio una formazione molto importante del post rock come Gas Tre Soul, che ha collaborato con i Minamo in un paio di album, e i Minamo appunto riescono a fondere molto bene questo elemento connesso tra elettroacustica e elettronica con elementi jazzistici che emergono quasi in sottotraccia, ma comunque sono elementi fondanti delle loro composizioni. E soprattutto l'elemento sonoro, e qui emerge chiaramente l'attenzione rispetto alla dinamica elettronica, che è molto forte ovviamente in questo progetto, il suono emerge in maniera molto molto marcata, un suono molto particolare, molto originale, molto peculiare, ricco ma mai eccessivo, è molto equilibrato, ed è la particolarità dei Minamo, insieme appunto alla grande capacità di unire elettroacustica con elettronica, e vedremo anche in questo brano con suggestioni jazzistiche, e la capacità di costruire un suono ricco anche di melodie e armonie che si intrecciano perfettamente nell'universo appunto che i Minamo vogliono rappresentare, e non sempre nell'elettronica, in progetti comunque connessi a una sorta di elettronica minimale e di un'elettroacustica dialettizzata con strumentazioni elettroniche riesce ad essere costruita, riesce a essere raggiunta da progetti di questo tipo. A questo punto vi lascio con l'album del 2003, Beautiful, il brano proprio di chiusura dei Minamo, e ovviamente vi saluto adesso, vi auguro una buona nottata, spero che questo percorso anche di conoscenza rispetto a un universo jazzistico assolutamente astruso, non convenzionale e obliquo, vi abbia interessato, ma soprattutto vi abbia dato uno stimolo per conoscere maggiormente una terra che tante volte ci arriva un po' troppo in maniera troppo macchiettistica e forse quasi da sorta di turisti curiosi che vanno a esplorare una cultura, un modo di vivere, di affrontare anche l'arte e le forme espressive in maniera appunto un po' piena di cliché. Invece speriamo, attraverso questo percorso musicale, di aver dato un contributo e che vi sia stato anche da stimolo in futuro per ricercare questo tipo di materiali, questo tipo di progetti. Vi lascio dunque con Minamo da Beautiful 2003, e ovviamente vi ricordo che 451 Frammenti Sonori ritornerà domenica prossima, sempre alle 23:35 circa, sulle frequenze di Radio Città del Capo. Buonanotte dunque da Unconventional Jazz from Japan.